un avvolta un sogno blu, la primavera, la gioventù, un'altra volta l'autunno fa le gote rosse e si appoggia. Viola, gli occhi nocciola, soffice inverno scivola, e nella mano un'altra mano, una carezza, un passepartout, c'era una volta un sogno blu, la primavera, la gioventù. E se non va.